che blocchi il contatto dei pensieri. Neve che copri l'imperfezione ideale. Neve confondi strade vicoli di un tempo. Neve ti lasci morire al sole e trasformarti. Pioggia che lava, incoscienza che prevale. Pioggia che scorre dalle grondaie delle case. Pioggia che riempi fiumi e torrenti che vanno in mare. Pioggia spaventi quando ti fondi con un ciclone. Non c'è né fine al peggio, non c'è né fine al peggio. Sole che porta la distorsione delle cose. Sole che inganna con i sorrisi che regali. Sole che agisci sia nel bene che nel male. E sole agitato tra tempeste nucleari. Non c'è né fine al peggio, non c'è né fine al peggio. Aria che danza tra le fessure delle porte. Aria che dolce accarezzi la mia pelle. Aria spaventi quando ti arrabbi e diventi vento. Aria permette a tutto il corpo di respirare. E non c'è né fine al peggio, oh, e non c'è né fine al peggio. Non c'è né fine al peggio, e non c'è né fine al peggio. Contatto dei pensieri, pioggia che lavi l'incoscienza che prevale, sole che porti la distorsione delle cose, aria che danzi tra le fessure delle vite.